Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Ecco, secondo certi commenti la cosa più importante che è successa al vertice del G20 di Londra è la sgridata che la regina ha rivolto al presidente del Consiglio italiano per questo suo... In realtà è successo anche altro, e peraltro non intendo il fatto che Michelle Obama ha abbrancato la regina fuori da ogni consuetudine e protocollo, non era mai successo. La regina è stata spiritosa, l'ha abbrancata a sua volta. Insomma, le pacche sulle spalle non sono una specialità del solo Silvio Berlusconi. La verità è che il G20 è stato un passaggio di una certa importanza. Ci sono gli scettici, soprattutto a sinistra, cito la posizione di Marco Deramo sul Manifesto, che dicono non è successo nulla di nuovo, non hanno riformato il capitalismo e come avrebbero potuto in 12 ore di vertice, non hanno neanche cambiato cose che, secondo Marco Deramo, commentatore appunto del Manifesto, critico del funzionamento del sistema capitalistico e del suo significato e della sua stessa diciamo così, della sua stessa capacità di fare giustizia, dice non hanno fatto nulla. Tant'è vero che i mercati hanno reagito felici perché non sentono toccato il loro interesse a funzionare come hanno sempre funzionato, e le borse sono state prese, almeno ieri pomeriggio, da una grande euforia. Però commenti diversi, e sono i commenti di maggioranza, i commenti preponderanti, dicono che alcune cose importanti hanno avuto risposta, alcune questioni importanti, domande importanti hanno avuto risposta, e sapete più o meno di che cosa si tratta dai radiogiornali, dai telegiornali della sera, dai giornali di oggi. Soldi freschi per il Fondo Monetario Internazionale, bei soldi, 1.100 miliardi di dollari tra i diritti speciali di prelievo e i finanziamenti diretti all'economia in crisi. Insomma, un tentativo, sia pure messo sulle spalle di un'istituzione multinazionale come il Fondo, di andare nella direzione richiesta dagli americani di stimolo fiscale. E poi più regole, soprattutto per quello che riguarda i paradisi fiscali. Per la verità non proprio regole, per ora ci si limita a identificarli attraverso una lista fatta dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e una complessa mediazione un po' bizantina, per usare un aggettivo così abusato in questi casi, da parte di Obama tra i francesi e i cinesi. I cinesi non fanno parte dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, e quindi non volevano che la sua lista dei paradisi, cioè, la sostanza è che i cinesi difendono molto Hong Kong, difendono molto, cioè difendono i loro paradisi fiscali. Tutti, ciascuno difende un po' il proprio diritto all'ombra, che è una delle grandi componenti dell'economia finanziaria internazionale. Comunque una mediazione l'hanno trovata, Brown e Obama sono contenti, hanno avuto parole di rassicurazione, di ottimismo, hanno fatto anche altre cose, hanno trasformato il Financial Stability Forum in Financial Stability Board, lo hanno ribattezzato e gli hanno dato più poteri, è l'organismo che deve controllare gli stipendi dei manager, che deve dettare regole di una certa importanza, come ha ricordato Mario Draghi sui fondi speculativi, hedge fund, e insomma hanno lavorato, ecco, non è che sono stati lì con le mani in mano. È stato il primo grande vertice internazionale di Barack Obama, e oltre a posare insieme con Medvedev e Berlusconi in una sequenza strepitosa di foto da gita, diciamo, scolastica, oltre a far questo ci hanno poi dato dentro, in realtà, qualcosa di cui discutere, da analizzare, di cui capire, da approfondire. Ce l'hanno offerta, e noi lo faremo con Marcello De Cecco, professore di storia della moneta e della finanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con Marta Dassù, di nuovo, che era stata con noi già 2 giorni fa per cercare di capire come si annunciava il vertice. Marta Dassù è la direttrice della rivista Spenia, dirige il programma internazionale dell'Aspen Institute Italia. Più tardi ci raggiungerà Mario Platero, che è, non so, in volo forse con Praga, eccetera, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, e avremo anche Sergio Nava, inviato di Radio 24, al seguito dei grandi della terra al G20. Per ora Deborah Rosciani ci dice che succede con l'apertura delle borse. Buongiorno, succede che l'ottimismo suscitato anche dal G20 di Londra, oltre a questo il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, sono stati due eventi che ieri hanno permesso alle borse internazionali di chiudere la seduta con un certo slancio e oggi arrivano le prese di beneficio. I ribassi di Parigi, Francoforte e Londra sono di circa 0,5 percentuale, quindi un ribasso abbastanza contenuto rispetto invece ai forti rialzi di ieri. Milano sta perdendo lo 0,7%, sta schizzando Pirelli in avvio più 4 punti percentuali, Geox più 2,16, Buzzi Unicem più 1,33, CIR più 1,19, Autogrill più 0,98%. Abbiamo un calo invece di 2,5 punti su Mediolanum, UbiBanca meno 1,88, Fiat perde 1,5 punti, ma ricordiamo che ieri i titoli del Lingotto sono letteralmente volati del 27%. Sta riprendendo quota l'euro sul dollaro a 1,34,29 in questo momento e abbiamo il petrolio che è ritornato leggermente al di sotto dei 52 dollari al barile. Giornata importante oggi per i dati economici che verranno diffusi, in particolar modo il dato sulla disoccupazione americana. Per ora è tutto, buona giornata. Bene, 800 24 00 24, i risultati del G20. Nava, inviato di Radio 24 al G20, qualche dettaglio, qualche particolare di cronaca sulla questione della piazza intanto. È stata dura o i giornali, i media hanno esagerato, diciamo, la dimensione delle proteste? Pare fossero 5.000, quanti erano? Buongiorno, diciamo che la piazza è stata abbastanza, secondo me, un po' enfatizzata, se vogliamo, soprattutto dai media. Nel senso che ci sono state delle manifestazioni concentrate in determinate aree di Londra, soprattutto quella attorno alla Bank of England, che però hanno registrato poi episodi anche di violenza, se vogliamo, sporadici. Do la mia testimonianza personale: mi trovavo alle 2 ora locale davanti al Bank of England, dove c'era un'atmosfera assolutamente tranquilla, era ovviamente molto sorvegliata a vista dai poliziotti, ma c'erano migliaia di manifestanti pacificamente sulla piazza, e me ne sono andato alle 2:15, alle 2:30 è stata assaltata la Royal Bank of Scotland da parte di alcune decine di manifestanti, per cui c'è stato sicuramente qualcosa, ma è stato sicuramente anche un po' enfatizzato dai media. Comunque, diciamo, le city si sono trasformate in oggetto simbolico di odio sociale e di protesta, di forte protesta, spesso anche violenta. Pensiamo ai sequestri dei manager e ad altri atti di illegalismo politico. A parte questo, ci sono altre cose di interesse, di rilievo cronistico nella fase finale del vertice, Nava? Ma diciamo che questo vertice, almeno a mio parere, per quello che ho potuto vedere, segna comunque una linea di demarcazione forte. L'impressione è che ormai si scrivano a 20, non si scrivono più a 8. Il tempo del G7, del G8, ho l'impressione stia lentamente tramontando. Comunque il segnale dato è forte, la stampa britannica stamattina lo enfatizza, c'è un nuovo ordine mondiale, poi dietro le righe va a fare le pulci a queste cifre e scopre molti di questi miliardi di dollari in realtà erano già stati impegnati in qualche modo, però sicuramente qualcosa è cambiato. Partiamo da questa cosa per avere dei pareri autorevoli. Professor De Cecco, alla Maddalena in giugno il G8 che farà? Il bagno? Ma che si sono battuti, c'è tante di quelle cose da mettere a posto rispetto a quello che si è ottenuto nel comunicato finale di ieri, che il lavoro non manca assolutamente, perché come già ha detto lei ci sono degli impegni, ma questi impegni non sono, tranne per uno che è importantissimo, che è quello della triplicazione dei soldi al Fondo Monetario Internazionale, sono impegni che devono essere espressi in dettaglio, quindi solo per questo ci sarebbe molto da fare. Ecco, ma il G8 senza la Cina può fare le regole? Invitati, quindi. Il G8, professore, senza la Cina, può scrivere? Avrà degli invitati in più, capito? Avrà degli invitati in più, quindi sarà allargato e potranno scrivere le regole, specificare. Ma poi queste cose, mica, ovviamente, quello che si è scritto ieri era stato anticipato da un comunicato, diciamo, draft, cioè una bozza, e quindi è stato in giro per le cancellerie, come si diceva una volta, per un sacco di tempo. Non è che ieri si sono riuniti e dice, beh, scriviamo questa cosa. Hanno raffinato dei punti che erano in contenzioso, come quello che ha ricordato certo, lei. Certo, i vertici sono ratifica infatti di un lavoro. Infatti lei va a guardare il comunicato, è scritto in un inglese meraviglioso, con uno stile che è una bellezza, e quindi ovviamente è stato fatto da chi lo sa fare, cioè dagli inglesi, che sono gente che in diplomazia ci sta da qualche tempo, e presentato poi i punti da discutere, su cui mettersi d'accordo ci sono stati. Quindi questa faccenda, noi ci dobbiamo veramente abituare alla diplomazia televisiva, a venire eventistica, perché è così ormai, a me non piace, però è così, quindi è inutile fare queste considerazioni che le cose non si fanno là, si fanno anche là e anche in quel modo. Tra l'altro, a proposito di maleducati, ce ne sono almeno 20, perché se lei ha visto la foto di gruppo, sì, appena è finita, si sono alzati tutti come scolari. Prima della regina. E la povera regina, che vergogna, che doveva alzarsi per vergogna, prima, sì, è rimasta seduta. No, no, ma appunto, è finito il mondo, quel mondo là è finito. Senta, la cosa più importante qual è, secondo lei? Questa triplicazione dei fondi, sì, per quella il... quella è certamente la cosa più importante, che è quella che parte subito, ma è quella è fatta per noi. Questa è fatta per... badare ai problemi dei paesi dell'est Europa che sono nel giardino di casa e ai quali, diciamo, l'Unione Europea non può veramente badare, diciamo, come istituzione. Quindi glieli abbiamo dati perché loro hanno tanti economisti, hanno tante missioni, sanno come si fa e possono intervenire nei confronti di tutti questi paesi europei dell'est che sono in grave difficoltà. Per passare in rassegna altre cose, diciamo, stabilite al G20, per esempio il no al protezionismo è un po' retorico, per esempio non hanno affrontato la questione della clausola Buy American, che quella è la cosa più pesante. Lo dico per gli ascoltatori, per chiarezza, la clausola Buy American è nel pacchetto di stimolo di Obama, cioè molti soldi immessi, molta liquidità per stimolare la ripresa dell'economia e dei consumi, però con questa idea che, insomma, poi bisogna comprare americano. Ma intanto c'è una versione ammorbidita rispetto a quella precedente, data organizzata al Congresso, che è sempre stato più arrabbiato in questi termini, sì, qui. E poi il protezionismo è quella cosa che tutti denunciano in pubblico e poi se vanno a casa e se lo fanno in privato. Financial Times aveva un bello specchietto il giorno prima del G8, del G20, in cui si vedeva quello che avevano detto ciascuno dei capi e quello che avevano quello fatto. Che avevano fatto ultimi... È così, purtroppo non c'è niente da ridere, cioè se non si fa qualcosa veramente di rilancio dell'economia mondiale, e questo lo deve fare ciascun paese perché a livello globale, insomma, si fanno delle dichiarazioni, e oppure una cosa come quella del fondo che serve però a stagnare più che a far riprendere. Professor De Cicco, la Repubblica ha fatto un titoletto: il segreto bancario cancellato per sempre. Ecco, questo è dobbiamo crederci, perché c'è scritto l'età dei segreti bancari è finita, quindi si suppone che sia vero, speriamo che sia vero. Si suppone che sia vero, ma queste cose regolative, tipo fine del segreto bancario, almeno presuntiva, lista grigia con i paradisi fiscali. Ma quella è una meraviglia di diplomazia. La Svizzera sotto osservazione, ma anche... La questione, dice, adesso metteremo regole anche per gli hedge fund, i fondi speculativi, non è che può essere poi un contributo invece a un aggravamento della crisi? Ma dipende da quello che, qui stavo dicendo che c'era tanto lavoro pure per il G8, per esempio nella determinazione di quali saranno le regole per gli hedge funds, anche per Mario Draghi, perché quello entra un po' nelle sue prerogative, sì, in quanto capo di questo nuovo organismo, che poi è quello di prima, con dei soci nuovi tra cui la Comunità Europea, cioè l'Unione Europea, e i dettagli poi dovranno essere tutti veramente specificati, perché il controllo a livello globale degli hedge funds quando costituiscono un rischio sistemico è una bellissima frase, come il resto del comunicato, che è dal punto di vista stilistico una meraviglia, però bisogna poi dargli del contenuto, e questo lo può fare una organizzazione internazionale, e poi deve essere però riversato su ciascun paese, in particolare quelli che organizzano gli hedge funds. Qui c'è una cosa da dire, cioè i paradisi fiscali non servono solo per metterci i soldi dei commenti di tutto il mondo, ma servono specialmente per fare degli importantissimi passaggi nella creazione di tutti questi strumenti nuovi che si sono inventati nella finanza mondiale, perché una parte importante consiste nel non pagare le imposte. Tra parentesi, lei è d'accordo sulla cosa scritta da Giavazzi sul Corriere di ieri? Cioè ha detto che bisogna ricostruire la leva finanziaria. Ah sì, no, quella l'ho letto, scusi, non avevo capito che era ieri, io credo sia l'altro ieri. L'altro ieri, scusi. Comunque, dunque, lì c'è... No, per capirci bene, cioè Giavazzi dice sì, è vero che la crisi nasce dall'eccesso di debito, però i mercati devono funzionare. La preoccupazione degli anglosassoni è facciamo ritornare i mercati a funzionare. Sono pragmatici e quindi rimettiamoli in grado di indebitarsi di nuovo. Qui c'è un desiderio di shock del mio amico Francesco che prevale sempre di più nel suo dire, mentre prima era più un ingegnere, adesso si diverte più a stupire. Certo, se uno fa la banca, la fa con la leva finanziaria. La banca normale la fa con 1 a 10. La banca che si usa adesso la fa con 1 a 100, 1 a 500, che è una cosa folle. E quindi hanno ragione gli europei quando dicono qua non si deve solo far ripartire, si deve far ripartire, però metterlo su un binario che non porta poi tra 3 anni alla stessa situazione di ieri, cioè del quindi 2008. Lei più dalla parte dei regolatori, insomma, io sono dalla parte di quelli che non credono che il mercato fa tutto bene da sé, perché lo conosco il mercato. Anna Rita da Roma. Anna Rita, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, dottor Ferrara. Guardi, io mi sono permessa di chiamare semplicemente per una piccola, per chiedere un piccolo chiarimento rispetto a un'espressione che lei ha usato e che mi colpisce sempre molto e mi dispiace anche ascoltarla. Prego. Questo dire odio sociale. Sì. Cioè, è un'espressione che secondo me blocca, cioè ci ferma la riflessione, perché l'espressione odio sociale, come dire, mi pare tolga proprio spazio alla possibilità di una comunicazione costruttiva. Cioè, qual è l'odio sociale? Possiamo parlare di malessere, possiamo parlare di sconto, di mancanza di rispetto. Anna Rita, mi riferivo a una cosa molto precisa, cioè l'assalto a una banca, sfasciarne le vetrine, cercare di entrare nella Bank of England e, non so, distruggere le superlettili, oppure rapire i dirigenti, i manager dell'azienda Caterpillar, rapire, insomma, sequestrarli, tenerli lì, dire voi da qui non uscite finché non abbiamo certe garanzie. Capito, mi riferivo alle forme più estreme, più radicali, diciamo, di protesta, niente di particolarmente oscuro, letterario, è un dato della realtà. La ringrazio, Anna Rita. Parliamo con l'elefante. 800 24 00 24. Che cosa hanno deciso i 20 grandi della Terra e che significa ciò che hanno deciso? Marta Dassù, politicamente come è andato questo vertice? Cioè tutti questi Hu Jintao, Medvedev, Obama e gli europei, insomma, le tensioni della vigilia, le prospettive, adesso si apre la cerimonia NATO, insomma, politicamente vogliamo cercare di capire com'è andato, perché naturalmente un vertice economico aveva un risvolto politico fortissimo. Ma il primo vertice di Obama, e credo che Obama abbia giocato una carta globalista, molto asiatica a Londra, anche perché oggi poi sarà la NATO e quindi vedrà gli europei, ma insomma l'esordio è stato decisamente spostato da quella parte con i suoi vertici bilaterali con Cina, Russia, Corea del Sud e così via. Secondo me è andato abbastanza bene, devo dire, rispetto alle previsioni di grandissime divisioni della vigilia. Credo che gli europei abbiano fatto un po' uno show per marcare le loro differenze, in particolare Sarkozy, che secondo me ha giocato una carta di politica interna e basta. Lo vediamo oggi, la Francia rientra nel comando militare integrato della NATO, che è una cosa ovvia, mi pare, dopo 40 anni, ma Sarkozy è stato molto criticato a destra, all'interno, e quindi ha fatto una mossa un po' gollista, questo minacciare una seggiola vuota sui paradisi fiscali. Era chiaro che l'accordo ci sarebbe stato. quindi un Obama asiatico, un'Europa che ha un po' giocato secondo me, e il G20 credo che in queste materie abbia soppiantato il G8, c'è già un prossimo vertice previsto di verifica in settembre a New York, e quindi credo il significato sia un po' questo: in queste materie così importanti il G20 è il formato, il G20 più insomma. Al G8 resta un po' di politica, resta l'aiuto allo sviluppo, ci sarà una giornata africana in Sardegna, ma insomma non c'è dubbio che dal momento in cui la Cina detiene gran parte delle riserve finanziarie mondiali, ha così tanti bonds del tesoro americano, eccetera, eccetera, il formato G8 appare obsoleto nella materia economica e finanziaria. Ecco, lei dice che Obama è stato asiatico, globalista e asiatico, però per esempio la storia della moneta di riserva, sì, e cioè soppiantare gradualmente il dollaro con un paniere, una valuta globale, una specie di serpente monetario mondiale, è stata bocciata, e su quella questione Obama insomma era in conflitto con gli orientamenti dei cinesi e dei russi, è stata accantonata. Certo. È chiaro che Obama è globalista, ma vuole che l'America eserciti la sua leadership per essere al centro, cioè non è certo un disfattista sul ruolo centrale dell'America nel mondo, però questa decisione ad esempio di creare, stampare insomma nuovi diritti speciali di prelievo va un po' nel senso che chiedeva la Cina, nel senso che questi diritti speciali di prelievo rispondono appunto a un paniere monetario, quindi la Cina ha una micro soddisfazione, secondo me l'ha avuta dal suo punto di vista, che consiste appunto nel rafforzamento di un tipo di moneta finta, sintetica, che è quella che la Cina propone e che secondo me non ci sarà nei prossimi anni vicini. Ma insomma in prospettiva la Cina un minimo di soddisfazione l'ha avuta. Platero, buongiorno, è arrivato Mario Platero. Dunque, con un tono colloquiale di cui lo ringrazio, il professor De Cecco ci ha spiegato alcuni passaggi piuttosto complicati in modo familiare e molto comprensibile per tutti noi. Volevo capire adesso, sempre per restare a questo tono colloquiale, non pettegolezzi, ma chiacchiere, cioè insomma questo vertice, ho visto il suo commento sul Sole, su 24 ore, lei dice che appunto Obama ha fatto una performance straordinariamente efficace, che è stato apprezzato praticamente da tutti. Che cosa lo dimostra dietro le quinte? Ma dietro le quinte sicuramente lo dimostra il suo ruolo di mediazione fra Francia e Cina, cioè abbiamo saputo che Sarkozy e Hu Jintao si punzecchiavano in modo piuttosto sgradevole quando erano seduti tutti al tavolo del negoziato fra i 20. Era veramente una cosa, ci hanno detto sia funzionari della Casa Bianca che altri, che quasi stava diventando imbarazzante proprio sulla questione dei paradisi fiscali. E qual era il contenzioso? Il contenzioso è che la Cina temeva che in questa famosa lista che chiedeva la Francia fossero incluse anche Hong Kong e Macao. E quindi era piuttosto così, piuttosto irritata. Non solo, ma aveva questa così riserva sul fatto che la lista fosse pubblicata dall'OCSE, che è un'istituzione internazionale di cui la Cina non è membro, e dunque non voleva che ci fosse un riconoscimento di questo genere al documento finale, così attribuito a un'organizzazione internazionale di cui ancora Pechino non fa parte. E dunque questo era diventato davvero, OCSE, attenzione, che ha sede a Parigi, ecco, dunque questo è diventato un punto di rottura. A questo punto Obama è intervenuto e davvero ha svolto un ruolo di mediazione, ha preso prima Sarkozy, l'ha portato in un angolo, ha cominciato a chiacchierare con lui, gli ha dato un pezzo di carta facendogli vedere una frase in cui forse si poteva trovare il compromesso. Sarkozy ha accettato, dopodiché Obama ha chiamato Hu Jintao, di nuovo sono andati nell'angolo insieme, hanno parlato, poi li ha raccolti tutti e tre insieme, alla fine si è trovato questo compromesso. Come? Invece di usare il verbo riconoscere, cioè il G20 riconosce che l'OCSE abbia questa lista, eccetera, eccetera, si è usato, si prende nota che, ecco, questo alla Cina è andato bene, dopodiché questa lista tra l'altro non aveva neppure Hong Kong e Macao. Quindi Obama in in questa così semplice, apparentemente questione di lana caprina, sembra strano che questi leader poi si vanno ad attaccare al significato di un verbo, però così è stato, alla fine ci si impunta ed è stato lui un po' col suo fascino, col suo modo di fare, con la sua semplicità, a riuscire a superare questa impasse. C'era un commento di un giornale internazionale questa mattina, c'era stato il suo primo atto di statista, ecco, di statista internazionale che è riuscito in qualche modo a mediare su qualche cosa. Ma l'impressione più forte, Obama, direi, è quella presa diretta, l'ha fatta nella conferenza stampa. È tornato l'Obama d'un tempo, l'Obama sicuro di sé, in grado di gestire una serie di rapporti di comunicazione con un pubblico molto diverso, perché non c'era solo la stampa americana, ma c'era davvero la stampa mondiale, e lo ha fatto con dei tocchi di genialità, lo ha fatto in modo ispirato, lo ha fatto rievocando questioni storiche e in qualche modo riflettendo sulle nuove dinamiche mondiali, prendendo atto che gli Stati Uniti da soli oggi non possono fare più nulla, gli Stati Uniti hanno bisogno del resto del mondo. Lui lo disse in campagna elettorale, dice in questo momento lo sto mettendo in pratica, e ha citato questa frase, dice, una volta, modello angloamericano, torniamo, Churchill e Roosevelt si sedevano da soli dentro una stanza e con un bicchiere di brandy decidevano che cosa fare, lo hanno fatto prima di Bretton Woods, e oggi non è più possibile, bisogna che si accolgano gli altri, bisogna che si tenga conto di questo mercato mondiale, una dinamica secondo lui molto migliore, perché porta benessere poi a centinaia di milioni di persone che prima non lo avevano, ma chiaramente cambia la dinamica di questo rapporto. Bene, che una volta era privilegiato. Per tornare alla dimensione, diciamo, economica, l'OCSE prevede un meno 4,3% di crescita dell'economia mondiale per il 2009 e un più 4% per il 2010, che non è un granché, ma insomma è una notevole inversione di tendenza. Professor De Cecco, lei ci crede? 4 meno 4 fa 0, come lei ha già detto. Sì. Siamo ad andare sotto e poi tornare sopra. Sì. Bisogna dire che se è vera questa somma che hanno fatto dei 5 miliardi di stimolo già dato, già promesso, insomma, in tutti i paesi del mondo, si può immaginare qualcosa di simile. Io direi 5 mila comunque miliardi, non 5 miliardi. Sì, io, vabbè, 5 triliardi, sì, ormai qua triliardi. Ci si sbaglia continuamente. Dunque, dicevo, qualcosa faranno sicuro, e quindi forse se avessero detto il 2 sarebbe stato più facile, però in alcuni paesi questo è sicuramente probabile. Dipende tutto da quello che fanno le esportazioni, grandi esportatori come la Germania, il Giappone, noi stessi e la Cina, perché se si riprende come domanda interna con poco effetto sulle esportazioni, questi paesi non è che fanno granché bene, nonostante lo stimolo, capito? Approfitto della sua simpatia e del suo linguaggio franco per farle una domanda ingenua, stupida, ma spontanea perlomeno. Bisogna colpire i redditi dei manager. Adesso hanno appunto delegato al Financial Stability Board regole specifiche in materia, poi regolamentare appunto i fondi speculativi, che sembrerebbe una contraddizione in termini, o quasi. Non è che poi tutto questo renderà più difficile uscire dalla crisi? No, io l'ho già sentito prima che lei va in quella direzione. Cioè, e io crede in quella questo direzione. Sì. Io non ci credo, no, veramente, perché io credo che gli hedge funds siano stati all'inizio, quando c'era la ICT. Però non sono andati male. Quello le stavo dicendo proprio, arrivavo lì. Se lei prende il grande manager di cui tutti pensiamo in Europa, eccetera, stiamo sui 20 milioni di dollari all'anno. Chissà quanto si è preso da solo il capo del Renaissance Fund, che è un grande matematico americano, 2,4 miliardi di dollari l'anno scorso. È un premio alla scienza, diciamo, alla competenza. Sì, è una scienza applicata. Quindi vuol dire che questa scienza ci si è riuscita a fare soldi pure nella discesa, oltre che nella salita. È un vero uomo di... D'altra parte George Soros ha detto, ma io... Lui arriva verso io mi sto godendo questa crisi, ha detto il finanziere Soros. Non è andato male nemmeno lui in quella statistica pubblicata appunto da 24 ore. Però a proposito di battute, le voglio, come storico della moneta, dire questo: l'edificio della Banca d'Inghilterra è stato costruito negli anni 20 su richiesta dell'allora governatore, con le finestre tutte rivolte verso l'interno, su una corte che c'è, per evitare i moti di piazza. Quindi queste cose sono già successe, la marcia della fame, quelle che vediamo tutti, insomma, al cinema. Niente di nuovo sotto il sole, certo. Purtroppo no, questo mi fa temere sulla possibilità dei ricorsi, essendo meridionale e vichiano. Massimo da Varese. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una... Pronto? Sì, faccia, dica. Siamo allora, volevo fare una riflessione su quanto state dicendo oggi. Sì. Si parlava di G20, si parlava di ridiscussione delle regole del mercato, no? Sì. Però, secondo me, correlato a questo, bisognerebbe ridiscutere e mettere a fuoco quali sono le regole anche del lavoro. Mi spiego. Bisognerebbe rimettere al centro, come perno sociale, il lavoro. Perché sia nel mondo occidentale, dove bisognerebbe tutelare di più i lavoratori che perdono il posto di lavoro, sia nel mondo orientale, che dove bisognerebbe tutelare di più i lavoratori, appunto, che non hanno nessuna tutela. Tutto ciò, secondo me, è fatto solo a favore del mero consumismo e basta. Questo, secondo me, dovrebbe essere fatto per rinvigorire anche l'economia. Mm-hmm. Ma noi abbiamo avuto un sistema che era tutto tutele, regole, sistemi di eguagliamento delle condizioni sociali, pianificazione, piani quinquennali, insomma molto rigido, non ha funzionato per la verità, si chiamava socialismo reale o comunismo. Però certo, io capisco quando lei dice, è una frase un po' generica, rimettere il lavoro al centro della società come perno della società, qualcosa significa. Per me, per esempio, significa che i lavoratori devono essere tutelati con seri ammortizzatori sociali, ma non il posto di lavoro fisso, anche quello improduttivo, come perno della crescita sociale, perché questo, ripeto, è stato già sperimentato e non ha funzionato. Emilio dalla provincia di Modena, ancora sulla questione dell'odio sociale. Pronto? Sì. Buongiorno, le faccio i complimenti per la trasmissione e per il suo equilibrio. Volevo solo puntualizzare quello che è il mio pensiero su quella telefonata che ha fatto l'ascoltatrice quando lei usa quel termine, sì, odio sociale, che anche a me fa fatica a digerirlo, per il semplice fatto che non condivido l'odio sociale, sono convinto che lei faccia bene a esprimere la sua opinione, però vorrei solo andare a capire dov'è che queste persone, di solito sono persone che sono meno difese, che hanno perso il lavoro, che hanno avuto dei danni molto importanti a livello anche familiare di questa crisi economica che qualcuno ha creato o anche pilotato per i propri guadagni, dov'è che sono difesi dalle istituzioni, dalla magistratura, da chi per essi, mm-hmm, e che hanno una rappresentanza, che hanno una parola. Beh, un sistema di difese, di tutele sociali, sì, Emilio, un sistema di difese e di tutele sociali è in piedi, per la verità. E comunque vorrei essere preciso. Odio sociale è tutto quello che non sarà la manifestazione della CGIL di sabato. Cioè, non voglio spacciare per odio sociale la protesta sociale o la lotta sindacale, naturalmente, che è ovviamente una delle grandi fonti di legittimazione della democrazia e anche di una democrazia economica. Parliamo con l'elefante. A Marta Dassù volevo fare questa domanda. E i vertici, appunto, si dice, prima ne parlavamo al professor De Cecco, sono soltanto il punto finale di ratifica, no? Si mette il timbro a un lungo lavorio delle cancellerie, come si diceva una volta, insomma, dei ministeri degli esteri, degli esperti, dei ministeri dell'economia, nel caso dei vertici economici, eccetera. Lei ha partecipato a numerosi vertici, li ha anche raccontati in questo suo nuovo libro Mondo privato e altre storie che è appena uscito. Ha partecipato con ministri degli esteri italiani, con presidenti del Consiglio. Secondo lei, insomma, questi vertici hanno in sé, diciamo, la parte di rappresentazione teatrale, quella che è arrivata di più poi in fondo a noi come fruitori di notizie, hanno poi un senso? Cioè, è importante come si comporta Berlusconi o Medvedev o Hu Jintao, quello che loro che pensano, i loro caratteri, il loro modo di rapportarsi agli altri, di darsi la mano, di stare a cena, di tenere la forchetta, di essere più o meno gentili oppure più o meno severi. Ecco, il Sarkozy che arriva con quell'aria così, diciamo, da... Sì, i francesi si dice sempre che sono degli italiani sempre di cattivo umore, ecco. Insomma, tutte queste cose hanno importanza o sono poi in fondo soltanto... Ma io credo di sì, perché appunto come lei ricordava c'è un lavoro, e come ricordava anche Marcello De Cecco, c'è il famoso lavoro degli Sherpa, cioè di questi inviati speciali dei primi ministri che lavorano per mesi a questo famoso comunicato finale. Però succede che la riunione finale sia in realtà quella importante, e quindi se non c'è lì Obama, che avrà pure alle spalle il suo consigliere, ma insomma è lì, e se lui non riesce ad andare da Sarkozy e poi da Hu Jintao, non c'è il tipo di accordo che ha descritto Mario Platero. Quindi è chiaro che quest'anno c'è stata anche una verticite acuta, perché sì, di vertici ce ne sono stati fin troppi, però questo in particolare a me è sembrato realmente importante, è un po' una fotografia di quello che è il mondo di oggi, con i suoi limiti naturalmente, ma anche con le sue novità. È un mondo interessante, è la prima volta che si ha l'impressione di vedere il mondo per quello che è dopo una decina d'anni di melina. Insomma, non ci decidevamo mai a cambiare i posti a tavola, questo è stato fatto, secondo me, con garbo. Obama ha questa caratteristica umana che io credo sia importante, è simpatico, è aperto, e quindi vuole rimanere il leader, perché nessun americano dirà mai io non sono più il leader del mondo. Vuole rimanerlo, ma vuole farlo in un modo dolce, vuole includere gli altri, e secondo me questo suo tocco ha funzionato. Professor De Cecco, come si fa a trattare su un piano di parità, di pari opportunità con la Cina? Perché adesso la Cina diventa interlocutore stabile, certo era già interlocutore stabile, no? del G8, certo. O del G7. Come si fa? Perché loro hanno un capitalismo, però hanno, non so, alcune migliaia di condanne a morte, non hanno un Parlamento che controlli, organismi terzi. Insomma, è un capitalismo, no? Con un regime politico così profondamente diverso da quelli occidentali. Questo non è un problema anche da un punto di vista vostro, degli economisti, degli storici, dei rapporti economici fra le nazioni, fra gli stati? Ma innanzitutto la pena di morte eseguita ogni anno ce l'hanno il Giappone, cosa che non sa quasi nessuno, e gli Stati Uniti, cosa che sanno quasi tutti. Quindi è un po' difficile prendersela con i cinesi, che avendo 1.300.000.000 persone, scusi, è diverso, ne ammazzano di più. Gli Stati Uniti hanno il giusto processo, no? Sì, vabbè, i cinesi hanno una cosa un po' diversa. I giapponesi hanno una cosa intermedia, però appunto. Anche loro hanno la pena di morte, e quello sono riusciti in qualche modo a escluderlo dalla discussione mondiale. È una cosa affascinante per me. Certo. Comunque il discorso è questo: la Cina è un paese di estrema pazienza, è una cosa molto interessante. Questa dirigenza cinese ha una capacità contrattuale e una pazienza veramente notevoli, che fanno ben sperare, anche se veramente, se non cambiano il modello di sviluppo loro, qui io no perché sono vecchio, ma voi, lei che è il più giovane, altri, veramente io non so dove andranno a trovare le materie prime tra 15 anni, non tra 50 anni, perché quello è il loro problema. Loro le materie prime non ce le hanno e ne devono adoperare una quantità che adesso noi non adoperiamo più. Quindi, per esempio, non so, la siderurgia mondiale è andata da Dio per 10 anni, perché la Cina doveva fare ponti, strade, eccetera. Cioè questi stanno a uno stadio al quale noi siamo stati nel 50, per capirsi. E quindi così gli Stati Uniti nel 30 e via via. Però questo vuol dire, moltiplicato per il numero delle persone che si ritrovano, che hanno una voracità incredibile per questo tipo di beni. Basta vedere il loro rapporto con l'Africa, che è un'altra storia di enorme successo. Pur essendo loro dei realisti assoluti, vanno in Africa e invece di dare i soldi al capo dicono: adesso ti facciamo una strada se mi fai estrarre. Sulla Cina le faccio ascoltare un'osservazione di Francesco da Milano. Francesco. Sì, buongiorno. Volevo proprio rilacciarmi a questo discorso. Io penso che la crisi finanziaria sia la conseguenza, ma la causa sia sicuramente l'Asia, perché quando abbiamo un continente, non solo Cina, ma anche Vietnam, Corea, tutti quanti, che produce assolutamente sotto costo, con fenomeni di dumping acclarato e molto forti, chiaramente mette in crisi tutto il resto dell'economia mondiale, che non produce più ricchezza. con cosa va a comprare i beni che la Cina produce? La Cina produce e non consuma. Questo è il problema reale che c'è secondo me oggi e che poi va a creare fenomeni di protezionismo, quali quelli di Obama, perché sta un po' cercando di difendere anche quello che è rimasto di produzione negli Stati Uniti. Non so, la ringrazio. La ringrazio molto. Sentiamo la risposta del professor De Cecco. La Cina produce e non consuma e produce sotto costo. Signor, la Francesco. Domanda è quella solita, è una domanda che ha una sua giustificazione. La risposta è questa. Avete mai visto i cinesi consumare? Io sì. C'hanno una voglia di consumare che gli italiani e gli americani fanno ridere al confronto. Solo che si trovano in un sistema in cui la pensione praticamente poco c'è. E la famiglia è tutto, quindi devono risparmiare molto e risparmiano anche per noi. Per esempio gli Stati Uniti senza di loro che farebbero? Certo, senza i loro quindi risparmi. C'è un problema, però state tranquilli, i cinesi sono come gli italiani, sono di un materialismo assoluto e quindi più gli dai e più mangiano per noi. Bene, questo sono è una molto, meraviglia da questo guardare è molto, quando consuma. Questo è molto consolante, professor De Cecco. Platero, che succede adesso? Dove vanno tutti questi grandi della Terra? Lei li sta seguendo come un segugio? Sì, sì. Stiamo seguendo, devo dire, un ritmo brutale, perché questa mattina ci hanno svegliato alle 3. E lo so, si sta meglio a Manhattan, sì, insomma, con la routine di tutti i giorni. Io la ricordo in quelle belle terrazze su Central Park con i cocktail. Ecco, dopo essere rientrati ieri notte all'1 da questo centro, che era la fine del, insomma, fuori Londra, sperduto in mezzo alle campagne, adesso siamo già a Strasburgo, siamo arrivati in questo aeroporto militare, nella foresta nera, almeno così dicevano le insegne, e ci stiamo trasferendo a Strasburgo, dove fra poco comincerà il vertice NATO. Obama parteciperà a un town meeting center, quelli che faceva durante la campagna elettorale, quindi porta un po' il gusto, il sapore della sua campagna elettorale qui in Francia, e quindi vedremo come va quello. Poi ovviamente si parlerà di Alleanza Atlantica, delle nuove sfide. C'è stata ieri una conversazione con Hillary Clinton, con il generale Johnson, che abbiamo avuto una conversazione telefonica noi giornalisti al seguito, e hanno così dato un po' un affresco di quel che si aspettano in questa alleanza NATO. La NATO, ha detto Jones, deve tornare, deve rivivere i suoi giorni migliori, anzi ancora non ha visto i giorni migliori, e dovrà avere sia un ruolo preventivo che gestire meglio le sue finanze. Magnifico, la invidio, Platero. Buon lavoro e grazie a Marcello De Cecco, a Marta Dassù, a Sergio Nava, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Meloc 2.0. Baci, a lunedì. Radio 24. La passione si sente.